con Caterina Corsi del collettivo teatrale Voci nel Deserto per presentare il nuovo appuntamento con Voci nel Deserto a Roma, al Teatro Roma. Torbella Monaca, giovedì 11 ottobre. Caterina, ben trovata. Ben trovato a te e ciao a tutti voi che state ascoltando. Sì, saremo al Teatro di Torbella Monaca alle 21, l'11 di ottobre, e il claim è un po' quello della metropoli resiliente in qualche modo. Parleremo di ecologia. Ora, quando si parla di ecologia, ai più viene in mente della gente vestita male che parla con le piante. In realtà non è così. E anzi, ci piacerebbe molto spostare l'argomento anche su, diciamo, da un punto di vista economico, perché poi, appunto, la distruzione del pianeta è curiosamente un problema anche economico in qualche modo, per cui in realtà le due cose si tengono insieme. Raccontiamo anche un po' brevemente la storia di Voci nel Deserto. Certamente, Voci nel Deserto nasce ormai nel lontano 2009, che se ci penso mi fa quasi paura, e nasce per opera, per idea, diciamo, suggestione di Marco Melloni, che è l'autore e che è colui che ci ha in qualche modo riuniti, ci ha messi tutti insieme. Ed eravamo 14 all'inizio, dopodiché nel tempo abbiamo fatto un primo debutto di prova per vedere come andava. Insomma, nel giro di un anno eravamo un centinaio di persone, tra attori, musicisti, operatori dello spettacolo in generale, insomma, mettiamola così. E Voci nel Deserto nasce come raccolta differenziata della memoria, tanto per restare in tema ecologico, ovvero il recupero di frammenti letterari del passato che, riletti oggi, risultano attuali in una maniera sconcertante, quindi insomma un ripasso, diciamo così, per capire dove stiamo andando in qualche modo. Allora, continuano a essere una serie di monologhi intervallati anche da brani musicali? Sì, esattamente, da brani musicali eseguiti dal vivo, da un DJ o anche da musicisti dal vivo e anche da video, insomma una sorta di rave teatrale potremmo Sì. dire, in effetti a tutto tondo, perché poi si pensa sempre agli attori, ma in realtà senza i musicisti non andremo da nessuna Sì. parte. Ah. Diciamo che più che un copione di brani si tratta di una vera e propria partitura. Sì, anche le proiezioni hanno il loro peso importante, sì. Assolutamente, tutto quello che succede sul palco, anche fuori dal palco, perché non è teatrale in una maniera canonica, lo spettacolo è tutto in funzione al racconto, a quello che vogliamo dire, insomma, ai frammenti che vogliamo porre sotto l'attenzione del pubblico. È importante sottolineare il fatto che da parte nostra non c'è mai un giudizio, c'è una condivisione di ciò che abbiamo scoperto, perché siamo tutte persone che per mestiere, per casualità, hanno la fortuna di incontrare molti testi, molte cose particolari che non sono esattamente mainstream, e ci sembrava importante metterle a disposizione di tutti. In questo spirito, infatti, gli spettacoli di Voci nel Deserto sono tutti gratuiti per il pubblico. Sì. Quanti sarete in scena giovedì? 11, saremo 11 sul palco, compreso il DJ, e diciamo una formula ridotta da un punto di vista numerico del cast di Voci nel Deserto, perché poi siamo arrivati anche a un overbooking di 25 attori sul palco, un delirio assoluto. Come riferimento c'è sempre il sito internet Voci del Deserto. Sì, assolutamente, vocineldeserto.it, dove noi naturalmente aggiorniamo, ogni volta ci sono notizie, c'è anche tutto quello che serve per quello che riguarda la data di Torbella Monaca, che ricordo appunto è a ingresso gratuito come tutte le date di Voci. Sì. In previsione questa stagione cosa succederà? Dunque, per questa stagione, come tu sai, essendo noi tutti quanti più o meno teatranti, siamo vittime della scaramanzia, quindi dei progetti futuri, diciamo, non ti dico nello specifico per appunto scaramanzia, ma insomma abbiamo diverse cose in pentola che si realizzeranno a breve, mettiamola così. Diciamo, ci sono un po' di cose in ballo e dobbiamo capire quali sono le più giuste in questo momento. Ok, ci sono comunque già altre date fissate oltre questa romana? Allora, dovrebbe esserci una data a novembre, dobbiamo ancora capire qual è la data esatta perché stiamo aspettando la disponibilità del luogo fisico e Ok. quindi ci devono far sapere. E allora intanto diamo l'appuntamento con Voci nel Deserto a Roma, Teatro Dottor Bella Monaca, giovedì 11 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a Caterina Corsi. Caterina, un abbraccio, un in bocca al Anche a lupo e te. alla prossima. Viva il lupo! Ciao Federico, un abbraccio a te e a tutti quanti. Ciao. Ciao.